qualcuno dica amen. Signore, siamo qui radunati insieme questa sera per chiederti di guarire la nostra terra. Oh Signore, abbi per noi misericordia. Siamo il tuo popolo. Oggi veniamo umiliati innanzi a te. Siamo il tuo popolo. Abbiamo bisogno di te. Siamo i tuoi figli. sanaci.